Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Le piramidi d'Egitto, i grattacieli di Manhattan, la laguna di Venezia sono esempi di come la mano dell'uomo, costruendo delle architetture, non abbia violato il paesaggio, non abbia forzato un luogo. Anzi, in questi casi, è stata attenta e umile nel cercare di valorizzare l'intima identità della zona. Queste architetture valorizzano il posto, lo caratterizzano, lo interpretano in un modo unico, andandone a svelare la sua più segreta particolarità. Sono architetture così in armonia col luogo in cui sorgono che viene da pensare che siano sempre state lì. L'architettura deve rispettare il luogo, dunque integrarsi con esso, ascoltare, cioè il suo genius loci. È così che l'ha chiamato Christian Norberg Schulz, l'architetto norvegese che per primo formalizza questo concetto. Schulz non si chiede come intervenire in uno spazio, ma come questo spazio vuole che si intervenga. Sostiene che prima di ragionare su delle idee bisogna mettersi in ascolto del posto. Con questo non vuole dire che esista una sola architettura possibile per ogni paesaggio. Tuttavia pensa che l'architettura debba essere compatibile con il territorio e intimamente legarsi con esso. Dopo aver formalizzato questo concetto, è ovvio che il modo di progettare le nostre città non è mai più stato lo stesso. Ma ascoltare il luogo, cercare di intuirne l'intima essenza per non violentarla con interventi inopportuni, non è solo la dote di un buon architetto. La storia che vogliamo raccontarvi oggi nasce proprio in un luogo dove l'identità è molto forte e la natura è una nobile signora che non ci sta ad essere ignorata e calpestata. Questa terra è la Toscana e più precisamente il territorio è quello di Bolgheri, dipinto malinconicamente dal Carducci in una famosa poesia che vi proponiamo interpretata da Gianrico Tedeschi. I cipressi che a Bolgheri alti e schietti manda San Guido in duplice filar quasi in corsa, giganti e giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar, mi riconobbero e bentorni omai, bisbigliaron ver me col capochino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino, o siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti servian delle sassate tue d'una volta, o non facean già male. La storia ha inizio nel 1944, quando il marchese Mario Incisa della Rocchetta, per amore di sua moglie, la giovane contessina della Gerardesca, si trasferisce dal Piemonte a Bolgheri. Il marchese non è tipo da subire le situazioni e non ha difficoltà ad ambientarsi in terra toscana. È esuberante, intelligente, passionale, ama la natura. In Piemonte fino a quel momento ha coltivato diversi interessi, ma qui scopre la passione per i cavalli da corsa. Il suo sogno diventa presto allevare un puro sangue che vinca una gara importante. Ma il marchese Incisa dal Piemonte si porta anche un'altra grande passione, quella per il bere bene, e se con entusiasmo ha accettato di trasferirsi in Maremma, non è disposto, in nome dell'amore, a mortificare anche il suo gusto raffinato. È stato abituato a bere grandi vini, i Bordeaux, i Cabernet. Vuole mantenere quella passione senza doversi convertire per forza al Chianti, vino autoctono, poco raffinato e troppo aspro. Per un po' importa del Cabernet dalla Francia, ma ben presto si rende conto che così è eccessivamente complesso. Non ha altra scelta, lo avrebbe prodotto lui. Senza mire imprenditoriali, certamente, gli basta produrre un vino discreto che avrebbe bevuto in famiglia o al massimo regalato agli amici. Deve solo trovare il vitigno giusto, francese, naturalmente. Coltivare un vitigno francese in Maremma, però, può sembrare una scelta rischiosa per il territorio e lui non farebbe mai qualcosa che vada contro la terra, il luogo. Le due parole, infatti, che meglio riassumono il suo pensiero sono innovazione e rispetto. Ha già assaggiato però un vino prodotto da un vitigno francese di Cabernet, ma maturato in terra toscana, a Pisa, dagli amici Salviati. Sa che non si tratta di una forzatura. Quel prodotto è raffinato e particolare, lui ne è rimasto incantato. Del resto, il territorio toscano è molto simile a quello francese. Grave ricorda Bolgheri, colline dolci, clima mite, terreno sassoso. Grave, infatti, vuol dire ghiaia. Allora, perché non provarci? Oh, and how I have you with me. How did it drift this far? Just a little stiff embrace, and I'm live as usual, with our pockets full of something that was beautiful and all the world. whirlwind new. Now I wander on my wing now without you. L'occasione per iniziare la carriera di viticoltore del marchese Mario Incisa della Rocchetta gliela dà proprio uno dei suoi cavalli. Si chiama Ribot. Del resto i cavalli sono l'altra grande passione del marchese. Il sommelier Andrea Gori ci racconta com'è andata. In scuderia, perché lui come lavoro diciamo allevava cavalli, gli capitò di allevare un certo cavallo di nome Ribot. Gli capitò anche questo cavallo vinse per 2 anni di fila all'Arc de Triomphe a Parigi. Nella prima occasione ha fatto una scommessa con il barone Rothschild che se avesse vinto appunto il suo cavallo, Ribot, gli avrebbe regalato una barbatella di Cabernet dello Chateau Lafitte. Ribot vince quell'anno dunque e il barone paga la sua scommessa con una barbatella, una pianta che ha buttato una barbetta di assetate radici di quel prezioso Cabernet. Il marchese la pianta, la coltiva, la segue e 2 anni dopo produce la sua prima bottiglia. Il vino che ne viene fuori è particolare, strutturato, molto diverso da ciò che si beve da quelle parti. Ha un sapore e un profumo che parlano di Toscana, ma un che di raffinato che ricorda la Francia. Tuttavia è molto giovane, troppo. Non ha ancora un carattere forte, ma è comunque migliore di ciò che si trova da quelle parti. L'obiettivo dunque è raggiunto. Il vino viene prodotto in modeste quantità, giusto per soddisfare i bisogni della famiglia e accontentare gli amici che di anno in anno apprezzano sempre di più quell'esperimento. Nasce così la prima versione di ciò che diventerà il Sassicaia. 10 anni dopo la salute del marchese inizia a vacillare. In compenso suo figlio è ormai un uomo ed è deciso a prendere in mano l'azienda agricola, la scuderia, il vigneto. Ed è proprio grazie a lui che questa storia prende una piega inaspettata. Il suo nome è Nicolò Incisa della Rocchetta. Nicolò Incisa della Rocchetta. Nicolò ha un carattere molto simile a quello del padre, deciso, intelligente, lungimirante. In Toscana anche lui si sente un po' straniero, subisce tutto il fascino di quella terra, ne riconosce l'unicità e non vuole fare nulla che vada contro il territorio toscano, le sue leggi, la sua storia. Ama quella terra tanto quanto detesta le auto fuoristrada e le stravaganze da aristocratico. Piuttosto si sporca le mani nella vigna, scende in cantina insieme al fattore, striglia i cavalli nelle scuderie. Ha grandi capacità manageriali, ma non si tira indietro se c'è da faticare. Suo padre gli ha sempre insegnato che amare vuol dire prima di tutto avere rispetto. E lui ha rispetto della natura, tutta. Adora gli animali almeno quanto detesta la caccia. Per lui un cane randagio vale quanto un puro sangue. La sua cagnolina preferita, infatti, è una Jack Russell rimasta piccola per un difetto genetico. Ma Nicolò pensa in grande. Quando passa alla guida dell'azienda, fa subito un po' di cambiamenti significativi. Scorge in quel vino dei tratti speciali. Sa che può diventare un prodotto eccellente. Bisogna solo capire qual è il passo successivo, come ci spiega lui stesso. E infine è rimasto in cantina perché mio padre, cioè in quel momento non avevamo idea di commercializzarlo. E lo bevevamo nell'ambito della famiglia, con gli amici e diciamo che inizialmente, finché era giovane, forse era un vino così diverso da quello che la gente era abituata a bere in quel momento, però già da allora ha fatto vedere il potenziale. Siamo alla fine degli anni 60. È da poco che il vino viene venduto e ancor meno che viene esportato. I contadini se lo producono in casa, per sé o per chi lo va a comprare direttamente nelle cantine, e le aziende vinicole si affidano solo al fai da te. In Italia poi la figura dell'enologo non è ancora così riconosciuta. Ma Nicolò non ci sta a obbedire a regole imposte da una tradizione che nessuno ha mai messo in discussione. Crede in quel prodotto e non vuole precludersi nessuna strada. Per prima cosa quindi pianta altre vigne e la produzione si decuplica. Quel vino ora ha bisogno di essere giudicato da un palato esperto e deve essere pensata poi una rete di distribuzione. Nicolò sa che suo cugino, il marchese Piero Antinori, commercializza in vini di grande spessore e ha da poco assunto un enologo. Sa anche che è un giovane chimico che viene dal Piemonte ed è lui il nostro secondo personaggio. Si chiama Giacomo Takis. Giacomo Takis. Cioè, a quell'epoca svolgeva un'altra attività, nel vino non era un'attività prioritaria per noi, per cui ci siamo rivolti agli Antinori, che appunto sono i nostri cugini, per la commercializzazione di questo vino. E Giacomo Takis era l'enologo all'epoca, già all'epoca era l'enologo di Antinori. Giacomo Takis nasce nel 1933 a Poirino, piccolo comune della provincia di Torino. Viene da una famiglia modesta. Suo padre Antonio fa il meccanico tessile, mentre sua madre Cecilia la casalinga. Ha un fratello maggiore, Antonio Mario, che con Giacomo condivide la passione per lo studio. Per Giacomo è veramente un esempio e un grande trainer. Beh, lui era semplicemente un genio. A soli 17 anni leggeva e rileggeva con grande naturalezza testi di fisica per universitari. Anche a Giacomo piace tanto studiare. Si appassiona a tutto, letteratura, arte, scienza. Ma non ha la passione solamente per lo studio. È piuttosto ribelle, tenace, forte e ha una specie di insofferenza verso coloro che sono autoritari senza essere autorevoli. Tiene testa ai professori e se una cosa gli va di traverso non c'è modo di fargliela piacere. Al contrario di suo fratello, non saprà subito cosa farà da grande. Sa solo che vuole godersi la vita. Io andavo a scuola e studiavo sul serio perché mi piaceva. Io amavo studiare. Lo studio, i libri sono un po' come una droga. Quando si tratta di iscriversi alle superiori, Giacomo si trova stretto tra una madre che non accetta un futuro mediocre per suo figlio e le idee ancora troppo confuse. In questo scenario svetta solo una certezza: la passione per la chimica e la biochimica delle piante. Per lui la chimica è un grande mistero attraverso il quale capire la filosofia, la storia, l'uomo, la natura. Insomma, Giacomo, attraverso la chimica, capisce la vita. Per il vino non ho mai avuto passione. Per la chimica del vino, sì. Per la chimica organica, per la chimica delle piante, per la biochimica. Quella è la mia passione ancora adesso. Il destino vuole che un cugino di sua madre sia direttore della Martini e Rossi. Fallo studiare da enologo, gli dice, che poi te lo sistemo io. Iscrivilo all'Istituto Agrario di Alba. Giacomo accetta, senza sapere bene ciò che lo aspetta. Ma non gli importa granché. Avrebbe potuto studiare la chimica e questo gli bastava. Per il giovane Giacomo Takis, gli anni all'istituto agrario sono anni bellissimi, spesi tra lo studio e il divertimento. Passa ore in laboratorio, perso dietro ad alambicchi ed esperimenti, mentre i suoi compagni preferiscono correre dietro a una palla. Spesso lo prendono in giro, gli danno del secchione, gli dicono che sta studiando per diventare un mescolavino. Ma Giacomo non si offende, anzi, quella definizione gli piace. Ecco cosa avrebbe fatto da grande. Il mescolavino. È molto amato dai professori, i suoi genitori ne sono orgogliosi. È intelligente, coraggioso, intraprendente, curioso. Proprio per questa curiosità si interessa a ciò che succede negli altri paesi e fra tutti una figura lo affascina particolarmente, il professor Émile Penaud di Bordeaux. Ancora oggi quando lo ricorda il sorriso gli si accende e gli occhi si commuovono. Penaud è stato il più grande enologo del mondo. Viveva nella città di Bordeaux, figlio di un carrettiere, intelligentissimo, bravissimo. Durante gli studi ad Alba io gli scrivevo sempre per corrispondenza. Mi ha insegnato moltissime cose. Quando Giacomo finisce le superiori, la promessa del direttore della Martini a Rossi non può più essere mantenuta. Lui però non è certo tipo da scoraggiarsi. È un ragazzo pieno di risorse, attento, intelligente, preparato e in più ama la vita. Ha dalla sua una grande passione per la chimica e un lavoro che fino a quel momento sanno fare in pochi. Qualcosa sarebbe successo. Il giovane Takis passa così da varie esperienze, fino a che nel 61 il direttore di una grande cantina vicino a Ravenna lo informa che Lantinori sta cercando un enologo. Lantinori ha un magnifico laboratorio, è in Toscana, lo stipendio è buono, sembra perfetto. La famiglia Antinori è nobile e si occupa di vino da più di 600 anni. Sono i vinattieri più antichi d'Italia, non gli poteva andare meglio. Qui Giacomo inizia a studiare l'arte della vinificazione. Lo affascinano la microbiologia, i batteri, le trasformazioni adoperate dal tempo sulla materia. Il suo approccio è sempre scientifico. Dopodiché mi sono appassionato allo studio dei microbi, dei batteri. Da qui è nata la predilezione per il vino. Ho passato tante notti a leggere le cose che mi piacevano. Beh, molti leggono i romanzi. Io leggevo i testi di chimica e di microbiologia. Il vino non è molto studiato ancora. Viene prodotto in grande quantità in Italia, ma la qualità è piuttosto scadente. Certo, non da poter competere coi grandi francesi. In Toscana poi c'è il Chianti nel caratteristico fiasco di paglia, ma piace solo ai contadini. Con Piero Antinori Giacomo inizia a studiare ciò che offre il mercato internazionale, Germania, Stati Uniti e soprattutto Francia. Appare evidente da questi confronti che l'Italia è schiacciata dai pochissimi investimenti nel campo enologico. Le aziende hanno macchinari vecchi e consunti, i metodi di raccolta delle uve, di fermentazione e di conservazione sono superati. Niente viene fatto sulla base di un vero e proprio studio, ma solo su una tradizione che si tramanda di padre in figlio e che nessuno ha mai finora messo in discussione. Torniamo ora a quelle bottiglie di Cabernet prodotte dal marchese Mario Incisa e nel quale suo figlio, il marchese Nicolò Incisa della Rocchetta, riconosce un grandissimo potenziale. Sa che deve essere affinato, certo, ma Nicolò ha gusti esigenti e quel vino, è sicuro, ha tratti eleganti e soprattutto nuovi. Ha bisogno solo di un giudizio di un esperto e di una buona rete di commercializzazione e distribuzione. Chi meglio dei cugini Antinori può aiutarlo? Piero Antinori e il chimico Takis sono le persone giuste. È questa la porta attraverso la quale Giacomo entrerà nella leggenda. Ma questo ve lo racconteremo tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. A Destini incrociati oggi siamo in terra toscana, più precisamente a Bolgheri, dove un grande imprenditore di nobile origine, il marchese Nicolò Incisa della Rocchetta, vuole produrre e commercializzare un vino Cabernet che suo padre ha fatto nascere 20 anni prima. Per fare questo chiede aiuto ai cugini Antinori, vinificatori per tradizione da più di mezzo secolo. Loro gli prestano il loro enologo Giacomo Takis, chimico per formazione, mescolavino per aspirazione. Nicolò gli chiede di fare all'inizio una valutazione sommaria. Si sarebbe accontentato di pochi commenti, qualche consiglio. Giacomo ne assaggia diverse annate, quelle con i fusti meglio conservati. Segnala quelle pregevoli con una X e con un punto esclamativo invece indica quelle con qualche difetto. Ma da scienziato qual è, non riesce a fidarsi solo del suo gusto. Preleva dei campioni e anziché esporsi con un giudizio, si riserva un po' di tempo per analizzare il tutto in laboratorio e poter essere più preciso. Questo atteggiamento non piace né a Nicolò né a suo padre Mario. Chi si crede di essere questo chimico spuntato dal nulla? Sarà anche bravo, ma fa cadere dall'alto i suoi consigli. Poi ha un approccio molto scientifico, mentre i due nobili toscani pensano che il vino sia una materia viva, calda. Va annusato, assaggiato, degustato. Se ne deve capire il respiro, il carattere, l'anima, non analizzarlo come fosse una medicina per scoprirne i segreti. Ci vuole soprattutto sensibilità e intuito. Poi Giacomo viene da una cantina moderna, vuole introdurre delle innovazioni nell'uso dei macchinari, nella scelta dei materiali, nelle tecniche di coltivazione dei vitigni e in quelle di lavorazione. E Nicolò non è così sicuro di volerle accettare tutte. Quello che però Nicolò e Mario ancora non sanno è che Takis è sì un innovatore, assolutamente uno scienziato e certamente non ha ancora tanta esperienza nel campo del vino, ma è la persona giusta che farà grande la loro azienda e i loro prodotti. Perché è intuitivo, intelligente, azzardato, coraggioso, ambizioso, leale e rispettoso sia delle persone sia del territorio. E la sua paura era che Takis, venendo da una cantina più moderna e con produzione di vini più commerciali, potesse alterare quello che era, diciamo, l'impronta che aveva dato lui a questo vino. Però poi in realtà tutto questo non è successo, perché Takis è stato forse uno dei primi a apprezzare veramente Sassicaia e a poi collaborare alla produzione e proprio ad interpretarlo. Diciamo è stato forse il primo grande interprete, il migliore interprete che abbiamo avuto di questo vino. Giacomo e Nicolò, fortunatamente, scoprono presto di avere tanto in comune. Entrambi si sanno mettere in ascolto della natura e non hanno remore nello sporcarsi le mani con la terra. Sono rispettosi e azzardati. Infatti, tra i due, oltre a una proficua collaborazione di lavoro, nascerà anche un'amicizia sincera che resiste ancora oggi. Insieme assaggeranno il terreno, discuteranno sui metodi di fermentazione e a volte litigheranno anche per i diversi punti di vista. Ma alla fine daranno vita a uno tra i più richiesti vini italiani in tutto il mondo, il mitico Sassi Caja. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. Quando Nicolò e Giacomo si incontrano, il mercato del vino in Italia è seriamente messo in discussione. È un momento molto difficile, sono gli anni 60, gli anni del boom economico. Anche i viticoltori hanno voglia di quel benessere che l'Italia promette. Ma c'è crisi nel mercato enologico, i costi di gestione sono troppo elevati e il prodotto finale non regge la concorrenza dei grandi vini esteri, come ci spiega bene Sebastiano Rosa, per anni direttore della Tenuta San Guido dei Marchesi in Cisa. L'enologia italiana, la storia dei vini in Italia è stata travagliata, se pensiamo alle grandi qualità. Erano qualità di vini francesi, di pochi vini italiani, negli anni 50 e negli anni 60 avevano fama mondiale. Tantissimi proprietari terrieri toscani hanno la tentazione di convertire i campi a grano, a girasole o, perché no, piantarci degli ulivi. L'olio toscano in fin dei conti offre più garanzie di guadagno ed è sicuramente apprezzato anche all'estero. Non ci stanno più i contadini a fare tanti sacrifici e tanta fatica senza ottenere risultati adeguati, ma il marchese Nicolò non vuole arrendersi. La produzione del vino in Italia, quindi, sembra destinata a terminare. In questo scenario, il Sassi Caja appare non solo come un prodotto eccellente, ma anche pionieristico. E Nicolò in Cisa e Giacomo Takis come i due personaggi attraverso cui è stato possibile questo rinascimento. Sentiamo di nuovo Sebastiano Rosa. E quindi siamo passati da una produzione del classico fiasco, dove addirittura il Chianti veniva prodotto in piccole parti, ma con uve bianche, o dove veniva dato il famoso governo, a una produzione professionale di grandissima qualità che addirittura si è avvicinata o ha superato i grandi vini di Bordeaux. Giacomo Takis, per iniziare questa rivoluzione, mette seriamente in discussione tutti i metodi usati fino ad allora e Nicolò in Cisa gli permette di fare esperimenti sulla sua terra sempre all'insegna del rispetto dell'intima identità del territorio. Insieme percorrono strade non ancora battute da nessuno nel campo della vinificazione e insieme cambieranno per sempre non solo le tecniche, ma anche il gusto e le esigenze di tutti. Il rinascimento del vino italiano ha inizio e Giacomo Takis ne è il regista. Ce lo spiega ancora Sebastiano Rosa. È considerato il padre del rinascimento italiano perché ha portato l'Italia alla ribalta nel mondo vitivinicolo. Prima dei grandi vini prodotti da Takis, comunque con una consulenza di Takis, nessuno pensava o considerava un vino italiano a livello dei grandi Bordeaux o dei grandi vini californiani. Per operare la loro rivoluzione, Takis e il marchese in Cisa non esitano a chiedere aiuto a grandi tecnici, primo fra tutti l'agronomo Modi. Se devono produrre un vino che parli toscano, che sia evocativo della storia, che ricordi le atmosfere della campagna maremmana, bisogna prima di tutto conoscere il posto. Insieme a Modi scendono tra le vigne, ascoltano il territorio, assaggiano la terra per capire le qualità organolettiche, il microclima. Insieme sperimentano, studiano, analizzano, rivoluzionano. E alla fine soprattutto si fidano del loro gusto. Ma quali saranno i cambiamenti specifici che ridisegnano un paesaggio e insieme a lui tutta l'arte della vinificazione? Lo saprete tra poco, a Destini Incrociati. Silver pool of light. Destini incrociati. A Destini Incrociati oggi siamo in Maremma, alla fine degli anni 60. È un momento molto difficile in Italia per la produzione del vino. Le tecniche di vinificazione sono vecchie, il prodotto scadente, la fatica dei contadini enorme. L'antica arte di fare il vino in Italia sta per tramontare. Ma il marchese Nicolò Incisa della Rocchetta, proprietario della tenuta San Guido, insieme al suo enologo Giacomo Takis, non ci stanno. Insieme produrranno un vino nuovo, capace di risollevare le sorti di tutto un settore agricolo e tenere testa ai grandi rossi francesi, il Sassicaia. Alla base di tutte le rivoluzioni, però, ci sono sempre dei cambiamenti che risultano sostanziali. Qua non c'è eccezione. Tutto viene quindi messo in discussione, niente può essere più dato per scontato. Takis prova a girare le viti da nord verso sud. Spera che in questo modo l'uva possa prendere più sole e maturare meglio, diventando più dolce. Il risultato, infatti, è sorprendente. L'uva è decisamente più zuccherina e il vino che si produce da quei vitigni è più corposo e strutturato, il profumo più intenso, il sapore più persistente. Incoraggiato dal risultato, Giacomo propone anche di anticipare la vendemmia di una quindicina di giorni. I chicchi saranno così più sodi e verrà garantito un prodotto ancora migliore. E anche in questo caso, fa centro. Ma Takis non trascura neanche la fase della fermentazione, che fino a quel momento non è mai stata controllata. I viticoltori si sono sempre limitati a lasciare riposare il mosto nei tini senza particolari precauzioni. Takis invece sa che la fermentazione è un processo chimico e come tale è molto suscettibile alle escursioni termiche che si verificano durante la notte. La temperatura deve rimanere costante se si vuole preservare l'eleganza e l'unicità del prodotto. Takis e il marchese Incisa sono poi d'accordo da subito sull'invecchiamento in barrique di rovere, ma mostrano invece qualche contrasto sulla durata dell'invecchiamento. L'enologo sostiene che il vino non deve arrivare troppo vecchio all'imbottigliamento. Sente che così è snervato, stremato. Invece il marchese Incisa è più tradizionalista. Ma sarà ancora una volta Takis a spuntarla sulla base della chimica e dell'esperienza. Certa è una cosa. Giacomo e Nicolò si stimano, sanno accordarsi l'un l'altro per la riuscita del prodotto finale. Ora sanno che quelle due parole, innovazione e rispetto, sono fondamentali per entrambi. Firmando il successo del Sassicaia, Giacomo Takis diventa il primo vero grande enologo italiano, come ci conferma lo stesso marchese Nicolò Incisa della Rocchetta. Insomma, Takis era stato un po' un pioniere dell'enologia italiana e un grande maestro per tutti quelli che poi sono venuti in seguito. Il Sassicaia ha finito il suo percorso. È finalmente il vino straordinario che tutti oggi conoscono. Ha un magnifico colore, di un rosso rubino, intenso, concentrato, profondo. Il profumo è complesso. Si sentono i frutti rossi, ribes, ciliegie, more. La sua grande armonia e finezza sono da sempre i tratti più importanti della sua personalità, che lo fa apprezzare e amare in tutto il mondo. Ma soprattutto la prerogativa del Sassicaia è di avere una personalità forte e riconoscibile, che anche nelle annate più deboli non delude mai. La famosissima etichetta con la stella 8 punte d'oro in campo blu risulta elegantissima. È stato il grande marchese Mario Incisa a disegnarla così. È stata l'ultima cosa che ha fatto per questa sua creatura, di cui poi non ha mai fatto in tempo a vederne il successo. Sicuramente quando alle corse dei cavalli scommise quella barbatella di vitigno francese, non immaginava che avrebbe fatto poi tutta quella strada. Il successo del Sassicaia è sorprendente e sono tante le offerte che Takis riceve successivamente. Lui però è un galantuomo, sincero e fedele. Nella tenuta toscana si trova molto bene. C'è stima e gratitudine verso quei marchesi che gli hanno dato fiducia. Perché accettare delle altre proposte? Fino alla pensione, quindi, Takis promette a se stesso e al marchese Antinori che non avrebbe mai cambiato cantina. Mescolando i vitigni di Cabernet e di Sangiovese, per gli Antinori inventerà infatti altri due vini straordinari, il Tignanello e il Solaia. Del resto lui è un mescolavino e dopo la pensione fa a se stesso un'altra promessa. Mi promisi davanti allo specchio, senza testimoni, di fare consulenze solo da Firenze in giù. Una cosa seria. Ebbi offerte da tanti nomi importanti, ma non ho mai accettato. Ho detto, piuttosto faccio consulenza gratuita a un contadino del sud, ma non vado al nord. La carriera di Takis, poi, è continuata sotto il segno di altre grandi cantine, prima in Toscana, poi in Sicilia e in Sardegna, sempre rigorosamente da Firenze in giù. Portano la sua firma altri successi straordinari che fanno grande il mercato enologico italiano, come il Turriga della cantina Argiolas, il Barrua, ma anche il Terrebrune, il Campora, il Barbicato, solo per citarne alcuni. Il marchese Nicolò Incisa e Giacomo Takis non si sono arresi. Contro la tendenza del mercato nel momento in cui hanno iniziato, contro la tradizione che fino a quel momento non aveva dato grandi frutti, contro tutto e contro tutti, hanno saputo percorrere strade nuove e sfidare le eccellenze internazionali che fino ad allora non erano mai state eguagliate. Ora, grazie a loro, è cambiato il mercato ed è cambiata la posizione dell'Italia nel mondo vinicolo. Il Sassicaia, quindi, non profuma solo di frutti rossi, ma sa anche di caparbietà, di innovazione, di rispetto della natura. È un fiore all'occhiello per la Toscana e l'Italia intera. Ed è anche un prodotto che interpreta perfettamente il genius loci della terra toscana e che di questa terra ne racconta la storia. Ricordo che Nicolò Antinori una volta mi disse: «Takis, è un dovere civile che noi facciamo la cantina». E noi l'abbiamo fatto. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura.